GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Ancora una volta Inter Roma per la Coppa Italia, per il quarto anno consecutivo, stavolta tutto in finale secca all'Olimpico il 24 maggio. La Roma infatti ha eliminato il Catania pareggiando 1-1 in Sicilia, rigore di Aquilani e pareggio di Silvestri due minuti dopo, tutto nel primo tempo. I giallorossi avevano vinto 1-0 la gara di andata. Luciano Spalletti nel dopogara Rai pensa già alla finale. Sarà una soddisfazione perché poi giocare davanti al nostro pubblico un'altra finale di Coppa Italia è la conferma di come hanno lavorato questi ragazzi e delle basi che hanno costruito. La festa però è per due, alla Roma si aggiunge infatti la Sampdoria, che già matematicamente certa del settimo posto in campionato, con la finale Inter-Roma, ha la sicurezza di partecipare alla prossima Coppa UEFA. E ora andiamo in casa di quelli che aspettano la finale di Coppa Italia, ma soprattutto la domenica dello scudetto, casa Inter dunque, dove il protagonista di giornata è il giovane portoghese Pelé, autore all'Olimpico mercoledì del suo primo pesantissimo gol in nerazzurro. Sentiamolo. È lo primo gol che faccio per l'Inter e è un gol importante per me, ha un significato grande, ma il più importante di tutto è che l'Inter è passato a finale di Coppa Italia e sono contento per aver fatto questo gol. È il mio primo anno in Italia e vincere il Scudetto subito nel primo anno che gioco in Italia è una sensazione buonissima, è un grande piacere e sicuro che, e penso che domenica la vinciamo e possiamo fare tutte le feste. Su un altro fronte, la salvezza, tra quelli che aspettano c'è anche il Parma, ora terz'ultimo, che andrà a giocarsi molto domenica in casa di una Fiorentina arrabbiata. Cristiano Lucarelli ha segnato il gol partita contro il Genoa, ma qui parla anche di ipotesi relative al suo futuro in Emilia. E sentite cosa dice a proposito dell'ipotesi di una spalmatura del suo ingaggio in caso di retrocessione in Serie B. Facendo tutti gli scongiuri del caso, retrocessione sarà. Avevo detto che conoscendomi non avrei avuto paura a ripartire dalla Serie B, anche perché l'ho già fatto in passato, quindi non è che questo mi spaventa. Bisognerebbe chiedere anche alla società se avrebbe la possibilità di sostenere certi costi legati alla mia persona anche in Serie B. Beh, spalmamento dell'ingaggio, penso che passare da 4 milioni che prendevo a Doniz a 1 milione che prendo qua sia una bella spalmatura. Perché spalmare di più c'è solo la Nutella. Ma sulla volata scudetto arriva a dire la sua anche Diego Maradona, che ieri è sbarcato in Italia e lunedì a Roma giocherà la partita del cuore. Maradona si iscrive anche al partito che vorrebbe Del Piero in azzurro agli europei. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni Rai. L'Inter arriva una volta in porta e fa due gol. La Roma arriva 5 volte in porta e fa un gol. Io Del Piero lo vorrei nella mia squadra, però io non sono l'allenatore della nazionale italiana. Ufficiale, Pep Guardiola, ex bandiera del Barcellona ed ex anche del Brescia, sarà il prossimo allenatore del club Blaugrana al posto di Frankie Rijkaard. Lo ha annunciato il presidente del Barça, Joan Laporta. Rijkaard concluderà comunque il campionato anche perché Guardiola, attualmente allenatore della squadra B del Barcellona, è squalificato per 2 giornate. Cambiamo l'argomento parlando di tennis. Una grande partita non basta, Simone Bolelli contro Andy Roddick, numero 6 al mondo, che batte l'azzurro in 2 set, 7-6, 6-3. Era l'ultimo italiano, Bolelli, rimasto in lizza agli internazionali del Foro Italico. Ai quarti anche Djokovic, che a fatica batte il russo Andreev, e il grande favorito Roger Federer, che batte Karlovic e incontrerà Stepanek. Infine la Formula 1, in seguito al ritiro della Super Aguri dal Mondiale, la Federazione Internazionale di Automobilismo ha cambiato il format delle qualifiche, modifica obbligata peraltro. Le modifiche verranno attuate dal Gran Premio di Turchia in programma in questo fine settimana e prevedono che nei primi 2 turni di qualifiche saranno eliminate soltanto 5 auto, non 6 come in precedenza, mentre le restanti 10 nel Q3 si giocheranno come sempre la pole position. È tutto per GR Sport di questa mattina. Oggi pomeriggio l'appuntamento dalle 14 alle 15 è con il basket, con Palla Spicchi. Sarà nostro ospite, tra gli altri, Ettore Messina, coach campione d'Europa con il CSKA Mosca. Vi aspetto.